Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 7 minuti. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, venerdì 6 luglio. E mercati che stanno nettamente peggiorando nel finale. Il FTSE MIB c'è del 2,10% in questo momento, il FTSE All Share il 2,04%. A pesare sono i dati sull'occupazione americana, non solo, ma anche, come al solito, la situazione europea. Ne parleremo più avanti. Per darvi un'idea di come stanno andando le cose, è di poco fa un'agenzia battuta da Radio Cori, il Sole 24 Ore, nella quale fonti della Commissione europea riferiscono che non è per nulla chiaro se sulla necessità di vigilanza in caso di erogazione di fondi da parte del Fondo Salva Stati per mantenere basso lo spread, insomma per il cosiddetto scudo antispread, insomma ci sia necessità di vigilanza da parte del Fondo Monetario Internazionale oppure no. Questo non emerge chiaramente dalle conclusioni del vertice che avevamo dato per risolutivo, e quindi tutto sarà rimandato naturalmente al vertice invece del 9 luglio. Insomma, non si sa ancora se ha ragione Monti e quindi dice che la vigilanza della cosiddetta troica non ci vuole, o ha ragione Merkel che invece dice che la vigilanza della troica ci vuole. Quindi a dati economici negativi che arrivano dagli Stati Uniti, segnali preoccupanti ieri dalla Cina, si aggiunge il fatto che, come al solito, un'altra volta la confusione europea sembra massima. In tutto questo, naturalmente, pesa anche tutto questo si riflette anche sull'andamento dei titoli di Stato. I titoli di Stato italiani tornano sopra i 6 punti percentuali di rendimento per quanto riguarda quelli a 10 anni, quelli spagnoli intorno al 7%, lo spread che si allarga un'altra volta. Tutto questo lo commenteremo più avanti, ma oggi è la giornata nella quale finalmente habemus la spending review. Ci sono in realtà molte cose interessanti. Nei giorni scorsi siamo stati anche piuttosto critici, anche da questi microfoni. In realtà ci sono molte più cose di quanto non sembrasse all'inizio. Come al solito, fidarsi delle indiscrezioni può far male, perché appunto ci sono elementi interessanti soprattutto per quanto riguarda le municipalizzate e anche per il taglio delle province. Si diceva non ci sarebbe stato, ne parleremo proprio col presidente dell'Unione delle Province Italiane, che potrebbe avere una posizione che vi stupirà, perché in realtà loro sostengono che l'accorpamento delle province ci vuole. 349-238-6666 come sempre il numero per intervenire in diretta e anche per le vostre domande. Toccheremo questi temi, toccheremo anche temi più di economia italiana, come per esempio il fatto che partono di economia anche più vicina ai cittadini, come per esempio il fatto che partono i saldi e naturalmente sono una misura dello stato dell'economia italiana. Sentiremo che cosa ne dice Confcommercio, perché le previsioni sono un'altra volta al ribasso. Ci sono anche degli altri dati interessanti di oggi, sono quelli di Unioncamere sulla crescita del numero di imprese, che invece per una volta sono dati positivi. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve di oggi. Come sempre partiamo dalle materie prime. L'oro in rialzo a $1,608,57 l'oncia. In netto calo invece il petrolio, il WTI, quello quotato a New York, scende del 3% con consegna d'agosto a $84,58 al barile. E il Brent, sempre con consegna d'agosto, quello quindi quotato a Londra, scende del 2,15% a $98,5 al barile. Si diceva, il dato sulla disoccupazione americana ferma all'8,2%, lo stesso livello di maggio, è al di sotto delle aspettative. I posti di lavoro creati nel mese di giugno sono 80.000, meno dei 100.000 previsti dagli analisti. Negli ultimi 3 mesi la media di posti di lavoro creati è stata di 75.000 unità, 3 volte meno rispetto al primo trimestre dell'anno. C'è, per quanto riguarda l'Europa, come si diceva, l'andamento dei titoli di Stato. Lo spread tra BTP e Bund ha sfiorato i 470 punti base, quello spagnolo oltre i 560 punti. I tassi, i rendimenti dei bonus a 10 anni sono arrivati di nuovo al 7%, quelli italiani al 6%. Ad incrementare la confusione europea, la pessima dichiarazione del ministro delle finanze finlandese, Jutta Urpilainen. La Finlandia non resterà attaccata all'euro ad ogni costo, siamo pronti a tutti gli scenari, anche all'abbandono della moneta unica. Insomma, meglio uscire dall'euro che pagare i debiti altrui, riassumono le agenzie. Buone notizie per chi ha un mutuo, perché l'Euribor a 3 mesi scende al minimo storico, allo 0,549%, naturalmente anche un effetto del taglio ai tassi da parte della Banca Centrale Europea. E però, a proposito di Europa, dice Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario, bene i progressi europei, ma bisogna fare di più. Sempre a proposito dei ministri delle finanze, di ministri delle finanze di solito duri, abbiamo Wolfgang Schäuble, quello della Germania. La fine dell'euro porterebbe ad una catastrofe economica per la Germania, l'Europa e il mondo. Nel frattempo, tutt'altro che una catastrofe vive la Germania, dove vola la produzione industriale. L'indice ha segnato un rialzo mensile dell'1,6% e pensate, la previsione era dello 0,2%. Su anno però l'incremento è invariato. Ci sono anche dati italiani, quelli dell'Istat. Nel primo trimestre del 2012, tenuto conto dell'inflazione, il potere d'acquisto delle famiglie è calato dell'1% su base congiunturale, del 2% su base annua. Diverso il dato, il dato sul reddito disponibile. Nel primo trimestre è sceso dello 0,5% sul trimestre precedente, mentre risulta un aumento dello 0,9% su base annua. La propensione al risparmio è ferma su base congiunturale e in aumento in termini tendenziali, più 0,4%. Scende anche la quota del profitto delle imprese nei primi 3 mesi del 2012, risultata pari al 38,8%, con una riduzione di 0,9 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, di 1,3 punti rispetto al corrispondente trimestre del 2011. E veniamo al primo tema di questa giornata, che è la Spending Review. Come si diceva, c'è più di quanto previsto. Iniziamo a fare i numeri generali. Vi ricordo tra l'altro che domani il Sole 24 Ore pubblicherà nei fatti praticamente l'intero provvedimento commentato. Sono 22 pagine di speciale sulla Spending Review. Noi facciamo quel che possiamo nel poco tempo che abbiamo a disposizione e cerchiamo di darvi un riassunto. Le cifre: 26 miliardi complessivi, 4,5 nel 2012, 10,5 nel 2013 e 11 nel 2014. Obiettivo: evitare l'aumento dell'IVA per gli ultimi 3 mesi del 2012 e per il primo semestre del 2013. Quindi l'aumento dell'IVA dovrebbe arrivare, se arriverà, a giugno del 2013, chissà se è un caso, comunque dopo le elezioni. Si mettono in salvo altri 55.000 cosiddetti esodati con 1,2 miliardi a partire dal 2014. Ci sono gli stanziamenti per il terremoto, 1 miliardo l'anno prossimo e 1 miliardo nel 2014. E poi arriverà un terzo provvedimento di spending review che riguarderà le agevolazioni fiscali, la revisione strutturale della spesa, i contributi pubblici sulla base delle analisi effettuate da Giuliano Amato e da Francesco Giavazzi. Vediamo che cosa c'è. C'è l'obiettivo di attribuire alla Consip il ruolo di centrale acquisti dello Stato. C'è la riduzione, attenzione qua, delle dotazioni organiche, delle piante organiche delle pubbliche amministrazioni. Si è parlato di un taglio dei dipendenti del 10% e dei dirigenti del 20%, una riduzione delle piante organiche, è diverso. Il Sole 24 Ore di oggi in edicola lo spiega molto bene e chiarisce che in realtà queste piante organiche, che sono i dipendenti che ci dovrebbero essere, non sono pienamente riempite. Questo che cosa vuol dire? Che solamente per i ministeri, calcola il Sole 24 Ore, il taglio effettivo di dipendenti sarà in realtà del 4,6%. Quindi su questi numeri bisognerà ragionare un po'. Ci sono altre cose interessanti, a partire da quella che avevamo dato per morta, ossia la riduzione e l'accorpamento delle province. L'avevamo dato per morta, data per morta alla vigilia. Se ne prevede la riduzione e l'accorpamento con l'obiettivo di dimezzare il numero attuale, sulla base di due criteri, dimensione territoriale e popolazione. Definizione completata entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare con Giuseppe Castiglione, che è presidente dell'Unione delle Province Italiane, e che abbiamo in collegamento al telefono. Castiglione, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, dicevo prima in apertura che lei ha una posizione quasi inaspettata, nel senso che dal presidente dell'Unione delle Province Italiane, dall'Unione delle Province Italiane, probabilmente molti si sarebbero aspettati una chiusura totale di fronte all'ipotesi di accorpamento. In realtà voi siete favorevoli all'accorpamento, in realtà avete chiesto un'accelerazione al governo da questo lato. Ci sono dei però. Quali sono? Ma noi abbiamo chiesto un'accelerazione perché una volta per tutte bisognava dire una parola chiara. Noi superiamo l'articolo 23 del Salva Italia, che ricordo dava alle province solo funzione di indirizzo e di coordinamento. Oggi procediamo all'accorpamento, fra l'altro è la proposta dell'UPI, anche quello di dare il via definitivo alle città metropolitane, quindi una semplificazione. Laddove esiste la città metropolitana non ci può essere la provincia. Parliamo di gestione associata delle funzioni, parliamo di taglio degli enti inutili, di quelle agenzie, gli enti strumentali, di quelle società le cui funzioni potrebbero essere benissimo assolte da comuni e province. Quindi siamo i primi a dire vogliamo la razionalizzazione della spesa e poi un riordine istituzionale senza accavallamento di competenze, e finalmente anche ieri al governo abbiamo insistito perché entrasse nel decreto e perché finalmente si facesse una vera azione di razionalizzazione. I però e i nostri dubbi quali sono? Noi diciamo che a fronte di un'azione di razionalizzazione, ricordo che noi abbiamo portato tutta l'Unione delle Province a questa iniziativa molto concreta e molto seria, però noi diciamo oggi ci sono le funzioni che vanno completate, perché se è vero che dovrà esistere un'area di un governo di area vasta, sono alcune funzioni, penso all'edilizia scolastica, penso al mercato del lavoro che oggi gestiscono le province, che non possono non essere assegnate all'ente di governo di area vasta. Però questo, c'è un percorso parlamentare. La cosa più grave, quella che noi oggi denunciamo con grande forza, che nel momento in cui si vara l'accorpamento delle province si procede con un taglio di 500 milioni al fondo perequativo. Significa su 1 miliardo viene tagliato 500 milioni quest'anno, 2012, e poi addirittura un altro 1 miliardo nel 2013. Per noi questo significa è inaccettabile, significa non poter assicurare la manutenzione ordinaria nelle scuole, la sicurezza nelle scuole, non possiamo far partire l'anno scolastico, la viabilità provinciale, i centri per l'impiego. Obiettivamente un taglio di 500 milioni ai comuni, un taglio di 500 milioni alle province è assolutamente inaccettabile. Mi chiarisca, i cittadini in primo luogo a pagare questo taglio. Mi chiarisca questo, Presidente. Presidente, la fermo, si fermi un attimo, Presidente. Lei sta dicendo che con questi tagli a settembre non fate partire l'anno scolastico? Ma è assolutamente, con 500 milioni di euro in meno significa con i bilanci già consolidati, molti già approvati e qualcuno ancora in via di approvazione, con ulteriore taglio di questo, cioè ci sono due vie, o fare dichiarare il default o dall'altro lato aumentare la tassazione locale. Mi pare che già siamo ad un livello quasi limite, i cittadini non possono pensare che i comuni aumentano la tassazione locale e le province aumentano la tassazione, le regioni aumentano tutte le tasse a livello regionale, e quindi è chiaro che sarebbe il cittadino doppiamente penalizzato. Però le scuole non dipendono tutte da voi. No, tutte le scuole superiori dipendono dalle province, ma il stesso discorso diranno i comuni, non è un discorso tra comuni e province. Fra l'altro questo meccanismo veramente penalizza gli enti virtuosi, cioè coloro che hanno proceduto in questi anni alla razionalizzazione, per esempio, della spesa del personale. Poco fa lei parlava delle piante organiche, ma le piante organiche sono assolutamente irrealizzabili. Io penso alla provincia di Catania, alla mia provincia, io ho eliminato dalla pianta organica 150 persone, ma non li avrei mai potuto assumere, quindi non è un taglio. Un'azione di razionalizzazione invece è quella che ho fatto, avevo 38 dirigenti, oggi ce n'ho 11, eppure tutto questo in questo meccanismo non viene premiato, quindi gli enti più virtuosi, quelli che hanno fatto un'azione di razionalizzazione, verranno penalizzati da questo criterio che il governo ha messo in campo, quindi il taglio è assolutamente inaccettabile, quindi noi speriamo che in sede di conversione del decreto tutto questo possa essere attenzionato, perché obiettivamente è insostenibile, non ci pare che a livello centrale quello che noi chiedevamo, una riduzione significativa, un dimagrimento dell'apparato dello Stato, non mi pare che ci sia altrettanta risposta. Ogni qualvolta si vara una manovra, perché questa è una manovra, non si può dire che non è una manovra, si guarda semplicemente agli enti locali. Gli enti locali di fronte al rischio del default, del bilancio in dissesto, aumentano la tassazione locale. Non mi pare una maniera di procedere quindi virtuosa. Fermo restando che noi su un assetto diverso delle nostre istituzioni era la nostra proposta, siamo convinti e siamo contenti che il governo l'ha accettata, e ieri abbiamo chiesto al governo: per favore, non dilazionate ulteriormente questo tempo che dovrà intercorrere per dare un assetto più moderno, più efficace, più funzionale alla nostra istituzione. Però, Presidente, non capisco, perché dire accorpiamo ma non tagliamo i trasferimenti, cioè, o almeno di, non ho capito, è una questione di tempi quella che fate voi, cioè, perché i trasferimenti andranno tagliati se vengono accorpate, no? Di 500 milioni opera nel 2012. Lei capisce che già ci sono già molte amministrazioni hanno già approvato i bilanci, quindi già avevamo subito negli ultimi 3 anni circa 3 miliardi di euro di taglio dei trasferimenti. Oggi c'è un fondo perequativo che è di 1 miliardo di euro, che serve a compensare quelle regioni, quelle province che hanno minori trasferimenti dalle entrate tributarie, quindi erariali, e quindi quelle che hanno minori trasferimenti, c'era un fondo di perequazione. Questo fondo decurtato di 500 milioni e l'anno prossimo completamente azzerato, è chiaro che penalizza da un lato le province più virtuose, dall'altro lato le province più deboli, quindi le province che hanno minore capacità di introiti di entrate tributarie. È vero anche però, mi scusi Presidente, che lei ci dice: guardate, io da quando sono entrato in carica ho tagliato, su 38 dirigenti che avevo ne ho tagliati 27, però non è che sono tutti come lei, e quindi probabilmente guardi, i margini, vogliamo, mi scusi, finisco la domanda, sì. I margini per effettuare dei tagli anche consistenti all'interno delle province ci saranno pure, non posso credere che non ci siano. Ma guardi, io le dico che oggi la gran parte degli amministratori, ormai conosco la gran parte degli amministratori, abbiamo con loro un confronto molto serrato, le assicuro che oggi a livello dei comuni, delle province, in molte anche regioni, perché anche nelle regioni ancora ci sarebbe veramente molto, alcune regioni, penso alla mia regione, quindi in molte regioni, ma in molti comuni e province c'è una classe dirigente molto responsabile, che ha affrontato i temi dell'Europa, del patto di stabilità, c'è una classe dirigente che non se l'è fatto dire dal governo che bisogna utilizzare Consip. Io utilizzo Consip ormai sistematicamente, addirittura per me Consip è un punto di riferimento e io chiedo ai fornitori locali se scendono sotto Consip li aggiudica loro, quindi già Consip è superato per noi, cioè, quindi c'è classe dirigente che ha voglia di confrontarsi, di guardare, di non pensare che il pubblico dipendente è uno, cioè, che bisogna togliere di buono pasto, cioè, ormai è una, cioè, veramente il pubblico dipendente è uno che va incentivato a far bene il proprio lavoro, che non bisogna indurlo in atteggiamento invece di ostacolo a che le imprese possano investire, quindi a far diventare una pubblica amministrazione efficace. Però dobbiamo costruire anche assieme al governo, pur comprendendo il momento particolare, perché un momento è veramente particolare, quindi noi di questo ci siamo fatti carico, difatti la nostra proposta è una proposta innovativa, lei diceva le province sono una punta avanzata, perché abbiamo chiesto dal primo momento l'accorpamento, quindi un miglior assetto delle nostre istituzioni, sì. Quindi c'è una classe dirigente responsabile che ha voglia di confrontarsi, cioè, purtroppo assistiamo sempre a frasi fatte, nessuno conosce i meccanismi del bilancio, nessuno conosce i meccanismi e il lavoro che si è fatto sul personale in questi anni, anche in termini di qualità della classe dirigente. Chiaro, Presidente, io sinceramente però mi permetto di dubitare che sia andato così dappertutto, in tutta sincerità, perché ma guardi, le assicuro, io le posso fornire, cioè, fior di amministrazione, però fermo restando che noi quando abbiamo accettato con il governo i costi standard, anche la polera, cioè anche la battaglia che viene fatto ogni giorno, la battuta, una siringa costa X10 a Bolzano e 50 a Catania. Quando abbiamo accettato la logica dei costi standard, quindi sul personale, il costo della viabilità provinciale, il costo della manutenzione, cioè i costi standard per noi significavano questo. Perché fermare quel processo? Perché si possa definire un modello e individuare, stabilire quanto un servizio pubblico debba costare. Quella è una sfida, quella l'accettiamo, quella sta bene a noi, perché ha parametri scientifici, perché non è frutto del caso, non è frutto dell'improvvisazione, e invece è il frutto di una seria azione di politica. Insomma, noi siamo, non capiamo, non comprendiamo perché nessuno attacca gli autoici, gli autorifiuti, le agenzie, quegli enti che non sono eletti dai cittadini. Vede, se lei oggi da Milano vuole sapere cosa ha fatto il presidente della provincia di Catania, si collega sul sito e ha visto le ultime mie deliberazioni, conosce tutto, cosa fanno i miei dirigenti, cosa fa il presidente, i cittadini hanno tutte le informazioni che gli servono. Se lei gli serve l'informazione del lato idrico, del lato rifiuti, del bacino imbrifero, di tutta la miriade di enti, ne abbiamo censiti 3.200, le cui funzioni potrebbero essere benissimo assolte dai comuni e dalle province. Noi vogliamo difendere ancora l'elezione popolare, vogliamo difendere i cittadini, vogliamo far parlare i cittadini, perché questo clima di antipolitica non è che questo meccanismo di controllo abbia sempre funzionato negli anni, Non azzeriamo la democrazia, non azzeriamo la partecipazione. No, ma nessuno vuole azzerare la democrazia, però insomma non è che, ripeto, non è un meccanismo che ha sempre funzionato. Insomma, lei citava prima la regione Sicilia, non è che sia un esempio, come spesa efficace, ecco. No, assolutamente, infatti l'ho detto io in premessa, cioè, ci sono ancora delle, su questo, qualche buco c'è, alzare più il di qualche tono, buco, fare il dibattito, promuovere il dibattito. Chiarissimo. Le fatture non servono a nessuno. Chiarissimo, grazie al presidente dell'Unione delle Province Italiane Castiglione per essere stato con noi e buonasera. Vedo messaggi molto duri contro il presidente dell'Unione Province Italiane. Ci dite con questi lo spread dovrebbe essere a 5.000, altro che 500. Vi ponete dubbi sulle virtù del bilancio della provincia di Catania.

Poi c'è il taglio degli uffici giudiziari, che non fa parte, secondo il ministro Severino, propriamente della spending review. In realtà parla di una vera e propria riforma epocale, si parla di risparmi per 50 milioni di euro, ma appunto non sarebbe questo il punto, secondo Severino. I cittadini hanno diritto di avere dei tribunali efficienti che rispondano alla loro domanda di giustizia in maniera coerente. E questo giustifica i numeri che si sono raggiunti, dei numeri ragguardevoli, perché già vi davo il numero dei giudici di pace, invece le sedi di tribunale che sono state soppresse o accorpate sono 37, 38 procure e 220 sezioni distaccate, cioè tutte quelle esistenti sostanzialmente sono state soppresse. Questo è il quadro dopo il Consiglio dei Ministri notturno, durato 7 ore, e poi il seguito, appunto, a proposito dei tribunali, è il momento dei mercati. Che la giornata non sembrava pessima e poi ha virato decisamente in negativo. FTSE MIB -2,5%, FTSE OCHER -2,4%. Come di consueto in questi casi, le altre borse europee meglio della nostra: Parigi -1,88, Francoforte -1,92, mentre l'America cede l'1,33% sul Dow Jones e il Nasdaq cede 1,5%. C'è Ocondina, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Mi sembra che proprio l'America sia lo snodo quantomeno di questo pomeriggio. Sì, assolutamente. Ha aperto male Wall Street, ma ha aperto male Wall Street anche perché erano arrivati dei dati decisamente deludenti per quanto riguardava il lavoro americano di giugno. Ci si aspettava una robusta creazione di posti di lavoro, così non è stato, in più le borse erano già, diciamo, tra virgolette, preoccupate dalle parole pronunciate in mattinata dal direttore generale del Fondo Monetario Christine Lagarde, che ha annunciato un nuovo rallentamento dell'economia, una revisione al ribasso delle stime sulla crescita dell'economia mondiale, e il tutto poi si è tradotto in una pioggia di vendite che, come giustamente sottolineavi tu, poi si è accanita sulle borse periferiche, perché Milano ha perso il 2,5%, Lisbona pure, Madrid addirittura oltre il 3%. Giù, come sempre, come spesso accade in questi casi, le banche, titoli finanziari. Mediobanca lascia sul terreno il 6,2%, Mediolanum il 5,6%, Unicredit il 5,4%, negativa Fiat del 5,33%, in una giornata nella quale sono andate male anche Unipol e Fonsai, no? Unipol e Fonsai, ieri era arrivata l'esenzione di fatto dall'OPA per Unipol, che sembrava la strada spianata per il riassetto. Invece oggi un brusco stop, la mancata approvazione del prospetto informativo per gli aumenti di capitale che riguarderanno Fondiaria Sai e per Unipol, che di fatto dovrà comprare Fondiaria Sai, e quindi, diciamo, lo stop dei titoli in borsa. C'è da dire che il titolo Fonsai aveva aperto già molto male di per sé la mattina, perché il prezzo dell'aumento 1 euro era già di per sé poco market friendly, diciamo piuttosto alto per quello che poi viene ritenuto il valore di questa compagnia da parte del mercato. Alla fine poi in più è arrivato lo stop da parte dell'autorità, quindi Fonsai ha chiuso a -17, Unipol a -10, Prema fino a -8, Milano Assicurazione a -10, insomma un segnale molto chiaro del mercato che adesso forse teme che l'operazione possa, se non altro, subire degli slittamenti. :48 minuti, di nuovo buonasera da Simone Spezia. Stavamo commentando questa giornata di borsa, male tutte le banche, lo abbiamo detto, male Unipol, Fonsai e associate, per dirla semplicemente. Chi recupera invece nella giornata di oggi sono le utilities, c'è Ocondine. Sì, erano state penalizzate molto nei giorni scorsi, invece oggi Terna fa più 1,4%, Snam più 0,3% e nel Green Power chiude pari, che in una giornata del genere non è male. A cosa diciamo, è legato questo rialzo? Come detto, ai ribassi dei giorni scorsi, ma anche a un dato importante per quanto riguarda i consumi elettrici in Italia, che a giugno sono calati dello 0,8%, un calo ma comunque decisamente inferiore rispetto a quanto accaduto nei due mesi precedenti, -5,8%, -4%. Ricordiamo che il tema principale per le utility in questo momento è il mancato utilizzo della capacità produttiva. Il motivo è chiaro, le industrie non chiedono energia perché sono attanagliate dalla crisi. Chiaro, brevemente in pregilo. In pregilo continua a scendere dopo aver toccato i massimi nei giorni scorsi sulle speculazioni per un'OPA che poteva rappresentare un potenziale sbocco nello scontro per il controllo del general contractor tra Salini e Gavio. Oggi perde ancora -5%. Infine, ancora più brevemente, Fiat giù del 5,3%, qua è tutto il settore che va male in Europa. Renault ha annunciato un calo, diciamo, delle vendite mondiali del 13%, Peugeot, accusato un calo del 13% delle vendite mondiali nel primo semestre, e il primo costruttore francese, segno che il mercato proprio in Europa non tira. Grazie a Ciao Condina di Radio Core, il Sole 24 Ore, che poco fa ci ha parlato anche di consumi energetici, e parliamo invece di consumi veri e propri, di beni di consumo adesso. Scrivete intanto al 349-238-6666, battuta che non è male. Si tolgono i tribunali, ma in quelli che restano ci sono i cancellieri che scrivono ancora a mano. Sì, insomma, anche questo è un problema di riorganizzazione. Da domani partono i saldi in tutte le regioni italiane, anticipate da Basilicata e Molise, che hanno dato il via alle vendite a sconto lo scorso 2 luglio. Di questo parliamo con Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Buonasera. Buonasera. Naturalmente dal nostro punto di vista, che non è quello propriamente con l'occhio del consumatore, state attenti, ma è con l'occhio di chi vuol vedere che tendenza economica può emergere da questi saldi, visto che abbiamo i dati sul potere d'acquisto delle famiglie in calo in 3 mesi, 1% congiunturale, -2 su base annua, potere d'acquisto ai minimi dal 2000. Allora, cosa vi aspettate da questi saldi, Bella? Noi vorremmo poter dire che ci aspettiamo di risollevare un po' la stagione, oppure che in concomitanza con questi saldi emergesse qualche elemento così più generale di ripresa, ma purtroppo riteniamo proprio non sarà così. Noi ci aspettiamo su questi saldi estivi un giro d'affari di 3,8 miliardi, in forte calo sia rispetto al 2011 sia ai momenti migliori, quelli del 2007 e del 2008. Giusto per dare un ordine di grandezza, la spesa per famiglia dovrebbe essere leggermente, per famiglia, quindi per nucleo familiare nel complesso, intorno a 250 euro, con un calo di quasi l'8% rispetto al 2011 e di quasi il 23% rispetto al 2008. In buona sostanza, questi saldi andranno come il resto delle vendite e come il resto dei consumi di abbigliamento, calzature, tessili e accessori, che insomma sono stati contraddistinti da dinamiche fortemente negative. Quindi, in sostanza, non prevedete una variazione rispetto a quello che è stato l'andamento fino adesso, insomma, andamento da recessione resta quello? No, direi di no, perché guardi, giustamente lo anticipava lei all'inizio, quando abbiamo un calo del potere d'acquisto che ora, al di là del primo trimestre del 2012, che dovrebbe essere comunque migliore del secondo trimestre del 2012, ma quando abbiamo un calo di reddito disponibile delle famiglie di qualcosa come 2.000 euro rispetto al 2007, e considerando che il 2012 sarà il quinto anno consecutivo di calo del reddito, sarebbe illusorio, ma forse sarebbe anche stupido, attendersi che su acquisti come abbigliamento e calzature non ci sia un riflesso negativo. Ci sarà senz'altro, c'è già, e i saldi saranno perfettamente in linea con il resto della stagione. Poi qualche speranza è chiaro che ce l'abbiamo pure noi, stiamo vedendo una certa dinamicità imprenditoriale. Io leggevo dalle nostre federazioni territoriali che ci saranno anche delle iniziative complementari, non solo forti sconti in termini di saldo sul prezzo, ma non so, negozi aperti fino a mezzanotte dalle parti di Milano, anche altre iniziative, diciamo, di marketing per invogliare le persone ad acquistare. Certo, con l'attuale pressione fiscale e con i cali di reddito disponibile, qualsiasi operazione di marketing può avere effetti limitati. Sì, tra l'altro poi ci fanno notare degli ascoltatori, giustamente, che non chiamiamoli saldi perché non li possiamo chiamare saldi perché legalmente non lo sono. Certo. In realtà sono già iniziate un po' in tutta Italia e non da oggi una serie di vendite promozionali proprio per le difficoltà che i commercianti hanno a vendere, no? Certo, qui ci sono le solite complicazioni tipiche del nostro paese, nel senso che ci sono leggi, regolamenti differenziati per regione, comune, per cui una cosa si può fare da una parte, un'altra non si può fare dall'altra. Diciamo che ormai tutto l'anno, in modo perfettamente legale, ci sono spazi per iniziative, chiamiamole promozionali, di marketing a ampio spettro, per cui i prezzi sono abbastanza convenienti, come anche lo stesso tasso di inflazione dice, nonostante gli incrementi dei prezzi energetici, dell'IVA a settembre scorso e delle accise. Quindi le opportunità per fare buoni acquisti ci sono, ripeto, manca la materia prima, cioè i quattrini. Ultima domanda, sospiro di sollievo per quest'IVA che non aumenta in ottobre? Francamente direi che è una cosa positiva. Ora, diciamo, bisogna verificare, Banca d'Italia dice stiamo attenti, i conti vanno comunque preservati, vediamo bene se ci saranno questi risparmi. Certo, il nostro obiettivo, Confcommercio è stata tra le prime associazioni a mettersi contro l'aumento dell'IVA, già contro l'aumento dello scorso mese di settembre. Ora c'è un po' l'unanimità perché finalmente si è capito che l'IVA è un'imposta fortemente recessiva oltre che iniqua. Il nostro obiettivo è di far trovare al governo risorse per evitare totalmente l'ulteriore incremento di questa orrenda imposta. Comunque dobbiamo dire che il fatto di posticipare di 9 mesi è comunque un segnale positivo, ed è un segnale anche, questo va detto perché non dobbiamo illudere nessuno, ed è un segnale anche del fatto che lo stesso governo si è reso conto che la situazione economica è peggiore di quanto si prevedeva, non si prevedesse alcuni mesi certo. fa. Le 18:08, di nuovo buonasera da Simone Spezia, gentili ascoltatori, ci scrivete a proposito di commercio, Confcommercio, cosa ha fatto in questi decenni contro la grande distribuzione, perché non capiamo perché si debba fare qualcosa contro la grande distribuzione, a dire il vero. Noi apriamo un altro argomento e parliamo dell'Assemblea di Unioncamere. Si è tenuta oggi la 135esima Assemblea di Unioncamere, che è l'ente che rappresenta le Camere di Commercio italiane. È in collegamento con noi il presidente Ferruccio Dardanello. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, inizierei dai dati che avete fornito, che riguardano il secondo trimestre del 2012 e che ci sembrano interessanti perché sono i dati che riguardano il numero di imprese. Ci si aspettava o ci si sarebbe aspettato un crollo del numero di imprese in questo secondo trimestre 2012, visto che siamo, ed è conclamato, in piena recessione. Invece si registra una crescita, un saldo positivo per 31.500 imprese. E questo dato come se lo spiega? Innanzitutto qualche lato positivo in queste giornate fa bene, credo, al morale, fa bene alla fiducia, fa bene anche ad affrontare meglio quelle che sono le stagioni che dovremmo in qualche modo vivere. Ma ci sono dei dati che confermano ancora una cosa, che nel nostro paese l'impresa è ancora un monumento nel quale credono gli italiani, credono i giovani, credono tutti coloro che hanno voglia di progettare anche per sé in qualche modo il futuro. E un saldo attivo in una fase difficile come quella che noi viviamo, di oltre oltre 30.000 imprese, la dice tutta che questo paese ha ancora tante cose da mettere in campo, proprio in quel monumento, l'ho chiamato prima, dell'impresa, che è stato lo scheletrato sul quale noi abbiamo costruito i 150 anni della nostra storia. Qualcuno mi chiederà, ma è autoimpiego quello che si va a proporre? Io credo che probabilmente in questa fetta, in questo saldo attivo, c'è anche una fetta di autoimpiego, qualche posto di lavoro perso che viene in qualche modo ripetuto. Cioè lei intende per autoimpiego, intende qualcuno che, avendo perso il lavoro e non riuscendo a ritrovarlo, decide cosa faccio, apro un'impresa, questo intende per autoimpiego? Io intendo questo, perché di questo si intende quando si parla di autoimpiego, ma credo che i dati, se letti con più attenzione, dimostrano una cosa invece diversa. Le ditte individuali, che solitamente possono essere intese come la ricerca di autoimpiego, sono meno della metà del saldo attivo. Le altre 16.000 e fischi e imprese sono tutte imprese nate sotto forma societaria, quindi vuol dire che dietro c'è un progetto di lavoro, c'è un progetto non soltanto di vita ma anche di strategia. E delle 14.600 che sono le ditte individuali, probabilmente ci sarà qualcuno che vuole cercare nell'impresa qualche soluzione anche occupazionale. Ma io vedo questa miccia, questa scintilla che si sta ulteriormente accendendo in una fase congiunturale come questa, che in una giornata come quella dei nostri 150 anni mi dà un po' di ottimismo, mi dà un po' di fiducia per guardare avanti. Quindi il segnale è complessivamente positivo. Lei ha detto, tra l'altro, nella relazione annuale, dice: il nostro modello di sviluppo resta quello giusto, ci vuole però una manutenzione straordinaria. Noi abbiamo un modello che pochi altri hanno al mondo, dove c'è la grande impresa che è assolutamente protagonista da sempre, in modo particolare anche sui mercati internazionali, e poi una polverizzazione di imprese che sono il piccolo, il medio, il grande, che insieme fanno uno strutturato economico che credo per conto mio e per conto nostro sia ancora lo strutturato sul quale noi possiamo basare le sfide del nostro domani, anche perché noi siamo figli di un territorio con 8.000 campanili, con 8.000 diversità, ed avere la tutela di queste 8.000 cose io credo che possa essere per noi un valore che dobbiamo mettere assolutamente in conto anche per il domani. Visto che è arrivato il decreto sulla spending review e che probabilmente, insomma, qualcosa toccherà anche voi, che ruolo potete giocare come Camere di Commercio nel promuovere quello che lei definisce appunto un modello di sviluppo vincente, evidentemente? Guardi, io lo dicevo stamattina, ho sentito in questi mesi tanti si dovrebbe, bisognerebbe, avremmo bisogno. Noi stamattina non abbiamo detto queste cose, abbiamo detto le cose che stiamo facendo e le cose che faremo per dare una respinta in positivo in alto al nostro paese. Noi ci occuperemo in questi 3 anni in modo particolare con le risorse delle imprese, perché sono loro che ci finanziano, non abbiamo trasferimenti da parte dello Stato, ma ci impegneremo in modo particolare in 5 ambiti. L'internazionalizzazione delle nostre imprese, è su questo tema che oggi ci sono ancora tante opportunità da ricercare sui mercati. Il nostro brand Made in Italy è ancora stravincente in ogni ambito della nostra economia. Cercheremo di dare più innovazione alle nostre imprese, perché con l'innovazione si raggiunge la qualità, e la qualità è quella che ci sta premiando, non solo nel mercato interno ma sul mercato internazionale. Continueremo a dare alle nostre imprese le risorse finanziarie che servono per potersi innovare e investiremo nei consorzi FIDI, che sono oggi lo strumento indispensabile per le piccole imprese per avere fiducia dal mondo bancario, ingentissime risorse. E poi semplificheremo il paese come nessun altro. Noi stiamo mettendo in modo meccanismi ormai da settimane, da mesi, da anni, che portano alla semplificazione di tutti quei processi di cui hanno bisogno le imprese, sburocratizzandolo, rendendolo più flessibile, rendendolo più semplice, trovando quei meccanismi, ad esempio, dello sportello unico o di comunica o della giustizia alternativa, che hanno assillato in modo negativo in tutti questi anni il procedere della nostra economia. Ecco, saranno 4, 5, 6 punti e poi valorizzeremo questo territorio straordinario del nostro paese, questo scrigno che è ancora da aprire, da valorizzare, da mettere a disposizione del mondo, perché ogni cittadino del mondo dovrà sognare di venire nel nostro paese. Bene, se riusciremo a fare queste cose, e io sono convinto che ci riusciremo, perché le Camere di Commercio sono lo strumento, l'istituzione delle imprese ma gestite da imprenditori, quindi hanno il senso delle necessità e dei bisogni di ogni giorno. Io credo che nonostante tutte le difficoltà questo Paese è in grado di riprendere un cammino virtuoso, un cammino che ci possa portare di nuovo a un momento di ripartenza positivo. Lo speriamo davvero, grazie a Ferruccio Dardanello, presidente di Union Camere, per essere stato con noi e buonasera. Grazie, grazie a voi. Ci scrivete... Moltissimi giovani sono costretti ad aprire partita IVA come parasubordinati, non menta. In realtà ci sta dicendo proprio questo, che in realtà i dati illustrano che non si tratta di partite IVA. Le 18 e 17 minuti, 349-238-6666, il numero per i vostri sms. Dunque veniamo alla crisi dell'Eurozona. E non solo la crisi dell'Eurozona, anche i mercati che oggi sono stati orientati anche dall'andamento, dai dati sul mercato del lavoro americano, peggiori delle attese. Disoccupazione all'8,2%, sono stati creati 70.000 posti di lavoro contro i 100.000 attesi. Nel frattempo i mercati sono andati male, come si diceva, anche sulla scorta di Wall Street, giù del 2,5% il FTSE MIB a Milano e il FTSE Share giù del 2,4%, Madrid è scesa di 3 punti percentuali, un po' meglio hanno fatto le altre piazze finanziarie europee, Francoforte giù comunque del 2%, Parigi dell'1,8%. Londra di 0,5%, l'America giù dell'1,4% sul Dow Jones e dell'1,26% sullo Standard & Poor's 500. Ma anche il dato dell'euro ci conferma che l'attenzione continua ad essere concentrata là, dalle nostre parti, lo conferma il dato sull'euro, lo conferma anche l'andamento dei titoli di Stato oggi. In chiusura i rendimenti dei titoli di Stato italiani a 10 anni sono fermati sopra i 6 punti percentuali al 6,02%, lo spread con i titoli tedeschi a 470 punti, quelli spagnoli, i titoli di Stato spagnoli al 6,95%, ad un passo dal 7 dopo averlo toccato nel corso della giornata. In una confusione che regna veramente sovrana, tanto che, come si diceva in apertura, è stata abbattuta oggi un'agenzia, tra l'altro interessante, di Radio Corriere Il Sole 24 Ore, ma la confusione non è dell'agenzia, ma di quello che sta succedendo e delle decisioni che si sono prese nel famoso vertice che doveva essere risolutivo, il 23esimo se non sbaglio, secondo il quale una fonte europea dice che potrebbe aver ragione sia la Merkel sia Monti sullo scudo antispread. Non è per nulla chiaro se serve un intervento della cosiddetta troica e del fondo monetario oppure no. I finlandesi dicono meglio uscire dall'euro che pagare i debiti degli altri, mentre il ministro delle finanze tedesco Schäuble dice che l'uscita dall'euro, la rottura dell'euro sarebbe una catastrofe economica mondiale. Saluto Mario Seminerio, economista, autore del blog Fastidio scritto col PH, lo trovate fastidio appunto col PH.net. Seminerio, buonasera. Buonasera. Che ci aiuterà un po' ad analizzare la situazione a partire da quella dei mercati. Come si diceva, sì, l'America, i dati sulla disoccupazione, ma naturalmente non solo l'America. Sì, diciamo... La situazione congiunturale è in evidente peggioramento, gli Stati Uniti stanno mostrando segni di visibile rallentamento, adesso la creazione di nuova occupazione negli Stati Uniti che sta rallentando può essere imputata anche a problemi statistici, nel senso che i dati probabilmente hanno segnalato una creazione di occupazione durante l'inverno che era più alta di quella effettiva e ora stanno restituendo quello che avevano preso in inverno, ma al di là di questo c'è un rallentamento congiunturale globale, come dimostra anche l'azione della banca centrale cinese, no? Certo, che ha tagliato di 25 punti base il tasso di interesse, sì. Esatto, sia sui depositi che sugli impieghi e tra l'altro ha aumentato i margini di manovra per le banche a prestare, consentendo alle banche di praticare un tasso massimo sugli impieghi pari al 70% del tasso al quale si approvvigionano dalla banca centrale. Quindi possono prestare ad un tasso massimo o minimo, pardon, del 4,2%. Questo indica, assieme ad altre evidenze aneddotiche, in generale che la congiuntura cinese si sta raffreddando molto rapidamente e questo è un pericolo sia a livello globale, e lo sappiamo perché la Cina è stato il motore del PIL globale almeno negli ultimi anni, ma anche all'interno della Cina stessa sul piano politico, perché in Cina è in atto questo delicato processo di transizione politica che si concluderà in autunno. E chiaramente il Partito Comunista non può permettersi di avere un hard landing, una situazione cioè di crisi conclamata durante una transizione. A questo e su questo si innesta ancora una volta la situazione dell'Eurozona, sulla quale non c'è moltissimo da aggiungere, o forse sì. Io ho l'impressione, ma magari lo possiamo sviluppare con le prossime domande, ma ho l'impressione che i mercati stiano andando a vedere le carte dell'Unione Europea, perché i mercati vogliono un bazooka, cioè i mercati vogliono che effettivamente questo ISM, questo fondo salva stati, sia dotato di risorse illimitate per coprire potenzialmente situazioni di disagio dei paesi grandi debitori. Finché i mercati non avranno consapevolezza che sono in campo risorse illimitate da parte dell'ISM, il che vuol dire coinvolgere la Banca Centrale Europea, il mio timore e la mia ipotesi, la mia supposizione, che i mercati vadano a testare questa situazione, e questo sarebbe un classico attacco speculativo. Allora, quindi l'impressione è che ci troviamo di fronte sostanzialmente al medesimo scenario che abbiamo visto negli ultimi mesi, cioè da una parte una dotazione non adeguata di risorse finanziarie per la protezione, per i meccanismi che debbono proteggere, come dire, dall'attacco della cosiddetta speculazione finanziaria o dall'attacco dei mercati, insomma, chiamatelo come volete. Da una parte un problema di dotazione finanziaria, dall'altra parte resta comunque il problema politico, perché in realtà questo vertice, che appunto doveva essere risolutivo, più andiamo avanti coi giorni, più capiamo che così risolutivo non è stato, se vogliamo, anche per i problemi interni di politica interna della Germania, tanto per fare un esempio, perché insomma soffermarsi troppo sulla Finlandia e sull'Olanda, che come ampiamente spiegato non hanno effettivo diritto di veto, non serve a molto. Quindi c'è una questione da un lato di risorse finanziarie, cioè il mercato vuole che non siano quei 500 milioni dei quali è dotato miliardi di cui è dotato l'ISM, ma appunto risorse limitate. Dall'altra parte continua ad esserci, a permanere, il problema politico. Il quadro è assolutamente questo, e soprattutto è chiaro, o perlomeno è chiaro ai mercati, ma non ancora alla politica e non ancora ad una parte dei commentatori, che questo problema dell'Unione Europea, dell'Eurozona, non si risolve a livello di azioni di singoli paesi, per quanto azioni virtuose. Non c'è nulla in questo momento che possa aiutare un paese a cavarsi dal buco in cui si è ficcato per effetto di questa stretta fiscale violenta e concentrata nel tempo, a cavarsene da solo. Non è possibile, perché tagli in un contesto recessivo che si approfondisce, anche tagli di spesa come quelli meritevoli e meritori realizzati dal governo italiano proprio questa notte, non vanno, per fare un esempio, in riduzioni di imposta che possono stimolare l'economia dal lato dell'offerta, ma vanno a coprire nuovi buchi di bilancio provocati dalla profondità della recessione. Per cui cercare di uscire da questa problematica spingendo i singoli paesi in un avvitamento mortale di strette che generano recessioni, che generano altre strette, è lo stesso che tentare di sollevarsi da terra tirandosi per le stringhe. Purtroppo capisco che è un problema politico, capisco che c'è un problema di fortissima resistenza dell'opinione pubblica dei paesi del nord e della Germania, ma questa crisi ha una componente sistemica che è del tutto dominante e che rischia di portarci a fondo con essa. Non conta il virtuosismo di singoli paesi, per quanto tale virtuosismo dal lato delle riforme strutturali è ovviamente il benvenuto. Sì, in effetti solo, faccio per dire, 4-5 mesi fa un annuncio di taglio di spese per 26 miliardi in 3 anni avrebbe provocato, per qua forte meno forte, un'immediata riduzione dello spread e del rendimento sui titoli di Stato. E invece, come a conferma di quello che lei ci diceva, evidentemente sono cose che non servono più. No, la componente sistemica è diventata dominante perché la crisi evolve secondo un percorso temporale dove gli errori che vengono fatti di volta in volta allontanano dall'obiettivo e rendono la procedura di rientro ancora più dolorosa. Riassunto di un ascoltatore via SMS al 349-238-6666: i mercati dicono finché non deciderete che la banca centrale può stampare sarete sotto attacco, più o meno è così? È corretto, direi che è anche la mia tesi questa, è una tesi che può essere fraintesa da chi la vuole fraintendere, qui non è questione di azzardo morale perché le riforme vanno fatte, ma in parallelo serve anche altro, serve una rete di protezione che non può essere un fondo rachitico da 500 miliardi, che peraltro neppure sono 500 miliardi, perché quando verranno sborsati per il ricapitalizzazione delle banche spagnole, irlandesi e greche resterà assai poco. Grazie a Mario Seminerio, economista, che trovate sul suo blog fastidio.net, fastidio scritto col PH. Grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, grazie a Paolo Corleoni in regia, Mauro Del Corno in redazione, Barbara Bianchi e insieme a Barbara Bianchi. Il Focus Economia torna lunedì dopo il GR delle 17.